Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Oggi a Destini Incrociati parliamo di desiderio e della sua pericolosità, di piacere e della sua natura radicalmente animale, e della rivolta contro il conformismo che ferisce di più quando avviene attraverso il corpo. Parliamo di donne e di arte, di sesso e di amore, ma soprattutto di creazione e procreazione come fine ultimo di un progetto di vita, da sempre. Oggi a Destini Incrociati ci occuperemo di una porzione di storia italiana attraverso la donna che il destino ha scelto come incarnazione trasgressiva di quell'istinto che alberga in ognuno di noi e dell'incontro con chi ha saputo rendere la sua storia l'emblema di un percorso che il genere umano fa da millenni. Tutto comincia in Ungheria, il 26 novembre del 1951, quando a Budapest, in una famiglia come tante, si sente un vagito. È Elena Anna, o per tutti, Ilona Staller. Ilona Staller. Il padre è funzionario di Stato, lavora per il Ministero dell'Interno, mentre la madre fa l'ostetrica. Due professioni che segneranno la vita della neonata, come la segnerà la storia del suo paese. Budapest is in revolt. With uncontrolled fury, crowds set fire to Russian flags and put Soviet books to the torch. The Red Star is sent tumbling into the gutter. L'Ungheria, dopo la Seconda Guerra Mondiale, è sotto l'area di influenza sovietica e nel 1956, proprio nell'ex capitale asburgica, Budapest, scoppia la rivolta. Carri armati russi entrano in città per sedare i rivoltosi, provocando la morte di migliaia di persone. Ecco come ricorda quel periodo lei, che all'epoca aveva solo 5 anni. Mi ricordo che quando sono entrati i carri armati a Budapest e la mia mamma ci prese per mano, noi tutti bambini, eravamo piccolissimi, e ci portava velocemente, anzi scappavamo sotto in una specie di bunker sotto casa. Conoscere e vivere la politica, per chi è figlia di un funzionario di Stato in un paese come l'Ungheria in quel periodo, è inevitabile. Allo stesso modo però la piccola Ilona si interessa al mestiere della madre, quello di far nascere figli. Non si parla di cicogne in casa Staller. C'è al contrario una naturale dimestichezza con tutto ciò che ha a che fare con la riproduzione e la nascita. Ilona fin da bambina è bella, dolce. Le piace mettersi dei fiocchi tra i capelli biondi perché le sembra di volare via, come dice lei. Infatti la sua famiglia normale, la sua vita normale, a lei che sente di essere fuori dal normale, a un certo punto vanno strette. A 15 anni studia danza e impara a suonare il pianoforte, ma ben presto si rende conto che il vero strumento sul quale fare pratica per creare la sua arte è il suo stesso corpo. Ancora adolescente, di una bellezza acerba e intrigante, viene incoronata Miss Ungheria ed entra così a far parte della più grande agenzia di modelle di Budapest, la MIT. Raggiunta la maggiore età, la parola d'ordine ormai è trasgressione. Che vuol dire trasgressione? Trasgredire le regole. Trasgredire le regole, ribellarsi al conformismo. Questo vuole fare Ilona per lasciare un segno. Così nel 1972, a poco più di 20 anni, si trasferisce in Italia, il paese che lei sente il luogo ideale dove completare la sua missione. Lascia passare per la cittadinanza italiana un matrimonio con un uomo di 25 anni più vecchio di lei, dal quale si separerà presto. Fare la modella è semplice. La sua bellezza, la sua malizia, la sua determinazione la fanno sentire a suo agio di fronte all'obiettivo. La pornografia è ancora lontana, ma comincia a farsi strada l'idea che trasgredire debba comprendere per forza una scelta importante. Io sinceramente in Ungheria non lo sapevo che volesse dire, perché quando io ho vissuto da bambina in Ungheria non ce n'era pornografia. Non solo non c'era pornografia, ma non c'era nemmeno non c'erano i giornali Playman, Playboy, non esistevano. All'inizio decide di puntare sulla carriera cominciata nel suo paese, quella della modella. Si presenta in tutte le agenzie di Milano e non ha difficoltà nel farsi selezionare. Posa per la pubblicità di grandi marchi come Bella, Superga, Cirio. Ma è il cinema che vuole fare. Così a metà degli anni 70 si trasferisce a Roma. Piccole parti in film di grandi registi come Cuore di cane di Lattuada. Ma la vera rivoluzione arriva con la radio. Sembra strano per una ragazza che vuole fare del suo corpo la sua forza, la sua arma di trasgressione, imporsi con un mezzo dove il corpo è bandito. Ilona, questa voce così sexy è un fatto naturale oppure è un fatto studiato? Onestamente. È un fatto naturale. Sei sempre stata così? Sì, sì. La sua voce è sexy, la sua voce ha un corpo. E che corpo? La radio è forse il mezzo più potente per lei ora per lasciare spazio all'immaginazione, ingrediente fondamentale se si parla di trasgressione. Ma è veramente un giorno quando stavo facendo ancora il cinema, un giorno è venuto Riccardino, che è mio carissimo fotografo dell'epoca del fotomodella, e mi portava giù a radio. Dice, dai, proviamo questa trasmissione, che hanno fatto una trasmissione sexy, proviamoci anche noi, cioè eravamo le primissime persone che incominciavamo. L'amico fotografo cui si riferisce Ilona è Riccardo Schicchi. Con lui nasce la trasmissione radiofonica Voulez-vous coucher avec moi a Radio Luna. La trasmissione, dal contenuto erotico, va in onda di notte e l'inizio è sempre lo stesso. Cicciolino, vuoi venire a letto con me? Sì, hai capito bene, proprio con me, con la tua dolce, dolce, dolce Ilona. Better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste. You want a enche, come on. Mocha chocolata. What? Rio lady mamu. Voulez-vous coucher avec moi ha naturalmente un successo incredibile. Questa giovanissima ragazza bionda, eterea, di una bellezza adolescenziale, che parla alla radio di sesso come una bambina, infarcendo le sue frasi sussurrate e mugolate con vezzeggiativi e diminutivi, è una potenza. Si rivolge agli ascoltatori chiamandoli cicciolini. Tutti parlano di lei, conquista le prime pagine dei giornali, scomoda grandi giornalisti e opinionisti. È un fenomeno di costume. Nasce Cicciolina. Cicciolina è nata all'epoca della radio, per cui io adoro il nome Cicciolina perché l'ho inventato ed è più semplice del nome Ilona Staller, per cui anche all'estero con più facilità mi chiamano Cicciolina che Ilona Staller, che tra l'altro è come nome più popolare Cicciolina che Ilona Staller. Cicciolina ovviamente non abbandona il cinema, anzi vi ritorna con la popolarità acquisita attraverso la radio grazie anche alla sapiente regia della sua vita professionale dell'inseparabile Riccardo Schicchi, che ormai è anche il suo compagno. Uno dei film dove compare, Vizi privati e pubbliche virtù del regista jugoslavo Miklos Jangso, viene presentato nel 76 a Cannes, suscitando numerose polemiche. Ormai il sesso associato alla sua immagine d'angelo biondo, con coroncine di fiori sul capo e l'immancabile orsacchiotto di peluche, è il suo modo di comunicare col mondo. Il sesso per Cicciolina è amore. Il sesso è procreazione, come le ha insegnato la madre, quindi è un dono divino. Ma il sesso è anche il modo per combattere il conservatorismo sociale, soprattutto in un paese come l'Italia. La strada della pornografia è quindi una specie di ricerca verso la verità ultima del corpo, della gente, della società. Quando io diventai pornostar, perché io ho detto, beh, voglio vedere, voglio aprire questa porta della pornografia, di che cosa succede. È il periodo dei primi spettacoli live dove si mostra interamente nuda. Il suo corpo senza veli è l'evidenza di una donna che vive la sua fisicità senza pudore, nonché la rivendicazione dell'assoluta matrice naturale del desiderio sessuale. Il desiderio per Cicciolina significa vita. Il desiderio è la moneta di scambio che la natura ci ha fornito e che quindi dobbiamo onorare attraverso un eros solare consapevole, anche se ostentato. Cicciolina ne è sempre più convinta e le reazioni del suo pubblico le fanno credere di avere imboccato la strada giusta. È la volta della Rai con un programma dal titolo C'era due volte, dove Ilona, ormai per tutti Cicciolina, danza e canta coperta solo di veli. Senza porta e il Il suo è il primo seno nudo che compare in televisione. Un seno mostrato con candore, col suo fare da Lolita, che sciocca, ma solo fino a un certo punto. La sua immagine è così rarefatta, diafana, come la sua voce, così soffice, che viene difficile associarla a qualcosa di sporco. Anzi, quel seno, che farà capolino a ogni sua apparizione pubblica anche in futuro, tenuto delicatamente con la mano, in un gesto quasi materno di chi vuole nutrire e non scandalizzare, ricorda tanto quello della Fornarina nel quadro di Raffaello. L'Italia si dissocia, ma allo stesso tempo ne ha bisogno. Cicciolina è l'inconscio con la sua invadenza e la sua illogicità. Rappresenta tutte le repressioni, le paure, le proibizioni con le quali ognuno deve fare i conti, prima o poi. Cicciolina è un sogno, che pesca nell'infanzia del genere umano. Il suo percorso nel frattempo si sta delineando sempre più preciso. Cinema, spettacoli live, radio, TV, musica. Cicciolina canta, cioè usa la sua voce su delle note musicali. Nel 79 persino Ennio Morricone ne scrive alcune per lei, colonna sonora di un film dedicato al mare Egeo, destinato solo al mercato giapponese. Negli anni 80 si fanno più frequenti le collaborazioni anche con altre pornostar dell'epoca, tra tutte l'amica Moana Pozzi, con la quale i maligni pensano ci sia una rivalità. E nel frattempo i film cominciano a farsi più hard. Cicciolina scrive persino un libro. Ho invitato Moana a venire con me, di presentare il mio libro in Francia, e presentavo sempre perennemente come la mia carissima amica Moana Pozzi. Cicciolina vuole spingere sull'acceleratore, vuole provare tutto. Sembra che il destino la voglia fare arrivare fino in fondo, prima della svolta. Così compare in lei anche l'idea di incidere sulla società, sulle persone, sulla storia, passando attraverso un altro genere di esibizione, ma soprattutto prendendo spunto dalla sua storia personale e familiare. Ma io non è che ho scelto di fare la politica, io ho sempre fatto la politica. Ecco, la politica, la cosa pubblica, dare una veste istituzionale alle sue idee di libertà. Comincia tutto alle elezioni siciliane dell'81 con la Lista del Sole, un partito a metà tra il Partito Radicale e il Partito dei Verdi, come dichiara la stessa Cicciolina. Comunque parlava di sessuologia sulla libertà sessuale, della natura contro i centrali nucleari e sulla libertà sessuale. Ma qualcosa non va per il verso giusto in quella prima candidatura. L'Italia non è ancora pronta per accogliere tanta esuberanza. Ilona vuole entrare in politica, ricorda il padre, ricorda la sua Ungheria. La sua sembra ormai una missione, tanto quanto quella di scioccare e trasgredire con il suo sfacciato approccio alla sessualità. Non perde occasione negli spazi a lei concessi per intervenire sui temi di attualità e di politica. Ce l'ha nel sangue. Beh, e se vogliamo parlare di pornografia, in effetti nel nostro Parlamento ce ne sta molte pornografie. Per esempio le vendite di armi. Questa è una vera pornografia, o la mafia. Quindi normalmente sono uscito dopo una settimana. Verso la fine degli anni Ottanta l'Italia è pronta. L'anomalia del suo sistema politico si condensa tutta nella presentazione delle liste per le politiche dell'87. Nel Partito Radicale c'è Ilona Staller. Il proselitismo si consuma nelle piazze e la sua carnalità, mista all'innocenza del suo linguaggio, dei suoi abiti, dei suoi bacini mandati alla gente che la segue, oltrepassa il pubblico delle luci rosse. I tempi sono maturi. La campagna elettorale è tra le più colorate e allucinate che l'Italia conosca. La biondina con la fascetta in testa e l'orsacchiotto compare al fianco di Marco Pannella nelle TV, invitando i cicciolini, come li chiama lei, a votarla. Beh, adesso allora dai un saluto e invita le cicciolini e i cicciolini, mi pare li chiami così, a che cosa? Chi ama la natura e l'amore, votate Partito Radicale, unico partito che ci lascia liberamente esprimersi tutti quanti noi. Pieno. Il seno viene mostrato quasi come proposta di voto di scambio. Lo mostra come rito propiziatorio a ogni intervento pubblico, esibito davanti ai fotografi che si accalcano per cogliere quell'immagine di una nuova Italia che diverte, scandalizza, ma soprattutto fa riflettere. Il magnetismo del sesso viene portato in Parlamento, attraverso la provocazione del Partito Radicale e la candidatura libertaria di una pornostar tra le sue fila. Tutti ne parlano. Meglio le luci rosse dei fondi neri, dice Spadolini. Meglio una spogliarellista di un ladro, commenta Leonardo Sciascia, che ritiene la trovata dei radicali molto divertente. Un corpo di donna proiettato nella vita pubblica, con la sua materialità, il suo significato simbolico, non svela solo l'indecenza, ma anche la fragilità del sistema e dei suoi rappresentanti. Cicciolina è la quintessenza del peccato, con tutta la sua forza mitica. Dacia Maraini scriverà: la straordinaria carica simbolica del personaggio Staller stava proprio nella sua capacità di portare alle estreme conseguenze le regole del gioco, rendendole esplosive e provocatorie. Cicciolina ottiene 19.886 voti di preferenza, seconda solo al leader Marco Pannella. Una bizzarria tutta italiana. La rappresentante del sesso proibito entra nella gestione della vita pubblica di un paese. Ne farà una canzone. Il progetto di vita di Cicciolina si sta delineando sempre più, superando anche le sue stesse aspettative, probabilmente. Il destino l'ha scelta come emblema delle magagne di un periodo storico. È una specie di spirito sceso in terra per riscattare l'umanità dalle sue brutture, catalizzando sul suo corpo di donna i mostri di ognuno di noi. Se le paure hanno un volto, è più facile combatterle. E le paure dell'Italia di quel 1987 hanno un volto, un corpo, un nome d'arte. Cicciolina. Onorevole, lei si vuole fare pubblicità, quella ce la possiamo fare solo noi. I festeggiamenti per la sua elezione hanno il sapore di una festa dionisiaca di massa. Non poteva essere diversamente. Il suo primo giorno di lavoro alla Camera coincide con una giornata afosa dell'estate romana. L'onorevole Cicciolina è puntuale, si presenta in abito verde castigato, calze bianche, guanti di pizzo, capelli raccolti senza coroncine di fiori. Fellini si sente scavalcato da una realtà così felliniana, che scrive un articolo al riguardo. Cicciolina è un sogno della società italiana, qualcosa di profondo che affiora involontariamente e con cui si devono fare i conti. Ilona Staller, in Parlamento, è una situazione del sogno come radiografia di qualcosa di non risolto, come smania buia che agita in sé contenuti profondi, allarmanti. Sarebbero bastati 4-5 anni e la Prima Repubblica avrebbe vacillato. Da quel primo segnale dato dall'elezione di una pornostar, l'Italia dei partiti sarebbe sprofondata. Quel sogno di cui parla Fellini, a chi l'avesse saputo decifrare, segno divinatorio di un futuro prossimo, avrebbe detto probabilmente molto di più di un semplice scandalo, l'ennesimo nel bel paese, un paese che ha certamente altro a cui pensare. Il suo petto nudo messo in mostra in campagna elettorale sembra essere l'unica cosa concreta di quell'era politica. Cicciolina si fa un'intera legislatura, dall'87 al 92. Si concretizza il sogno della sua vita politica e in coincidenza sta per delinearsi la concretizzazione della sua vita privata. Proprio nel 1987, oltre oceano, un artista si imbatte per caso nella sua immagine e il destino sta per compiere un'ennesima svolta nella vita della ragazza ungherese naturalizzata italiana. La svolta decisiva. Lui è americano di origini tedesche. Si chiama Jeff Koons. Jeff Koons. Ecco come ne parla lui stesso in un'intervista per la rivista Panorama. Quando lavoravo alla serie Banality, cercavo nelle riviste le immagini che avrei potuto usare nelle opere, facendone una sorta di collage. E avevo visto su un magazine tedesco una fotografia di Ilona, scattata durante una festa. Era il 1987 ed ero rimasto colpito dal modo in cui era vestita. Ma non sapevo chi fosse in realtà. Una fotografia, solo un'immagine come agli esordi della sua carriera da fotomodella. Eppure quella rappresentazione bidimensionale rivela al giovane artista newyorkese un mondo reale, concreto, che vuole toccare, plasmare. Cicciolina, dalle pagine di quella rivista, a sua insaputa, si guadagna il biglietto d'andata per l'America. Destini incrociati. Destini incrociati oggi in Italia. Una giovane ragazza ungherese ha trovato nel bel paese la sua strada. È Ilona Staller, in arte Cicciolina, che dopo aver percorso la carriera della pornostar, decide di portare la sua propensione alla trasgressione in Parlamento. Viene eletta per il Partito Radicale con quasi 20.000 voti. È il simbolo di un periodo storico, emblema di un percorso a tinte forti, quasi caricaturale, che il genere umano svolge da sempre. Archetipo che disturba, ma che purifica allo stesso tempo, fonte da cui far nascere arte e vita. Un giovane artista statunitense l'ha notata su una rivista e la vuole incontrare. Jeff Koons ha fatto da poco il suo ingresso nel mondo dell'arte newyorkese. La sua prima occasione importante arriva nel 1980, con un intervento nelle vetrine del New Museum, nella vecchia sede di Broadway, dove espone The New, una particolare installazione realizzata con degli aspirapolvere. Quando si imbatte nella fotografia di Ilona Staller, sta preparando un cartellone pubblicitario per la città di New York. Ha già avuto la sua prima personale alla Gallery Sonband, dal titolo Banality. Per questo nuovo progetto decide di realizzare una sorta di campagna come se si trattasse dell'uscita di un film. Protagonisti, lui e quella bionda ragazza seminuda scovata tra le pagine di una rivista. L'attrazione sembra non essere solo quella artistica. Qualcosa gli dice che c'è dell'altro. Forse quello sguardo ingenuo, quel sorriso accogliente, gli parlano da lontano, non solo perché arrivano dall'Europa, ma sembra gli parlino dagli inizi del mondo. Lui, che ha sempre saputo fin da bambino che avrebbe fatto l'artista, sa che deve ascoltare l'istinto. Ho preso consapevolezza di me stesso quando ero molto giovane. Ma nella mia famiglia, mia sorella maggiore, Karen, dipingeva. Lei era in grado di fare sempre tutto meglio di me e quando ho cominciato a dipingere anch'io, andavo dai miei genitori per mostrare loro i miei disegni e loro dicevano: «Jeff, ma questo è meraviglioso!» E così ho imparato a sentirmi sicuro delle mie capacità. Jeff nasce in Pennsylvania nel 1955. I genitori lo incoraggiano nella sua passione per la pittura. Il padre espone le sue prime opere nel negozio di arredamento di famiglia e gli capita persino di venderne alcune. Nel frattempo manda il figlio a scuola al Maryland Institute College of Art di Baltimora, dove Jeff si diploma nel 76. È un ragazzo determinato. Sa che quella è la sua strada. Quando viene a sapere che Salvador Dalí è in visita negli Stati Uniti, non manca di raggiungerlo con una telefonata nel suo hotel per chiedergli consigli. Koons si sente molto fortunato sin dal periodo della scuola, come dice lui stesso. Quando ero al college ho realizzato di essere molto fortunato, perché questa attività poteva comprendere tutte le altre discipline del mondo. Potevo essere coinvolto con la filosofia, la psicologia, la fisica, l'estetica. Trasferitosi a New York dopo il diploma, trova una scena culturale molto vivace, che contribuisce a modificare le sue passioni pittoriche verso elementi meno tradizionali, portandolo a concentrarsi sull'arte concettuale. Sono gli anni in cui nella Grande Mela fioriscono le gallerie d'arte. Andy Warhol è già il rappresentante indiscusso della pop art. Basquiat sta lasciando il suo segno per le strade della città. Negli anni Ottanta l'arte è passeggera, eterea. Le opere riflettono le dinamiche capitaliste del mondo contemporaneo su una società occidentale dominata dal desiderio per le immagini narcisistiche e per lo sconfinato mondo delle merci. Tutto può diventare icona. Per Jeff l'arte comincia a diventare qualcosa di più di quello che gli hanno insegnato a scuola. Ho cominciato a capire che potevo avere una mia iconografia, che si poteva sviluppare un'iconografia con un potere intenso che fosse in grado di stimolarmi intellettualmente e fisicamente. Qualcosa che ti facesse sentire vivo quando vi entravi in contatto. Jeff cerca solo questo, qualcosa che lo faccia sentire vivo. Essere un artista significa parlare alla parte universale della gente, per trasmettere qualcosa che vada al di là della storia del singolo, abbracciando la storia dello spirito del tempo, qualcosa nel quale ognuno possa riconoscersi. Essere un artista significa fare i conti con gli archetipi che lo preesistono, significa essere in grado di captare e tradurre i segnali che appartengono al genere umano intero. L'arte è comunicazione. È meraviglioso quando riesci ad entrare in contatto con la gente. So happy together. If I I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. Appena arrivato a New York, per Jeff non è facile mantenersi attraverso la sola vendita delle sue opere. Fra l'altro, i suoi progetti sono sempre abbastanza costosi. Trova lavoro al MoMA come assistente alle relazioni con il pubblico. Pochi soldi, ma riesce a stare vicino al mondo che gli interessa. Per guadagnare seriamente, si rivolge altrove e diventa broker a Wall Street. Anche coi numeri ci sa fare. Lavorare nella finanza gli permette di portare a termine le sue prime collezioni. A Jeff piace essere onesto nella sua arte. Qualcuno la trova provocatoria. Lui risponde che è solo sincera. Il mondo è la sua ispirazione, come racconta lui. Io cerco di ascoltare tutto e di osservare tutto. Per me l'arte ha a che fare con l'accettazione. Quando cominci a credere in te stesso, ad accettare te stesso, ti rivolgi all'esterno ed accetti qualunque altra cosa. L'arte è una metafora della gente, è una specie di accettazione della gente. Lui crede nella vita, adora la vita, gli esseri umani, il desiderio che li spinge ad agire. Negli oggetti che ritrae, oggetti presi a prestito dalla quotidianità, cerca di mettere l'eternità del significato simbolico che questi oggetti portano con sé. Io penso che la differenza principale tra i miei lavori e gli oggetti di consumo è che l'arte è intenzione. Ciò che davvero si prefigge di fare è di connetterti con la sfera dell'umanità e il potenziale di un essere umano. I prodotti di consumo, invece, sono qualcosa che ha a che vedere con quello di cui hai bisogno in un determinato momento. Da Andy Warhol, di cui si dice sia l'erede, mutua l'idea dello studio, della Factory, dove il progetto nasce sotto la sua supervisione, ma si realizza grazie all'intervento di molti collaboratori. Se sei interessato a fare più di un quadro all'anno o più di una scultura all'anno, hai bisogno di un supporto. A me piace lavorare con la gente perché non voglio essere in una stanza da solo. Adoro questo senso di famiglia che ho col mio studio. Jeff si affida anche a un consulente di immagine. Crede profondamente nel potere del personaggio come trampolino di lancio verso la notorietà. Nelle prime interviste parla addirittura di sé in terza persona. Ma ora il suo progetto sta per prendere un nuovo indirizzo grazie all'incontro con quella ragazza che qualche anno prima lo guardava dalle pagine di una rivista e al desiderio che è nato in lui. I prodotti della mia arte non hanno a che fare con il prodotto o la sua vendita, ma con il desiderio e l'informazione. Quando Jeff vede Cicciolina e la prepotenza del suo corpo di donna, la sua innocente provocazione suggerita da piccoli dettagli come le coroncine di fiori tra i capelli o l'orsetto di pezza fra le mani, riconosce una forza rivoluzionaria. Quella forza che parla al genere umano intero, con la sua positività, e della quale lui, come artista, deve farsi carico. Ho sempre cercato di fare opere che avessero un effetto positivo sulla gente, perché credo fermamente nella vita, nella procreazione e nella continuazione della vita. Ho una visione ottimistica della vita. Le mie opere sono frammenti di una vita che spinge per continuare con la sua potenzialità. Le parole d'ordine sono vita, ottimismo, desiderio, procreazione. Tutto ciò che Cicciolina comunica anche solo al primo colpo d'occhio. Decide di incontrarla. Il muro di Berlino è appena crollato e con lui le ideologie sotto le quali Ilona è cresciuta. Non è l'unico muro che la riguarda. Lei, che proprio in quegli anni è in Parlamento e sta contribuendo a far crollare anche quello del falso moralismo. La sua immagine pubblica non fa che aumentare la simbologia che si cela dietro al suo personaggio. L'incontro dei due è per entrambi il completamento di un percorso personale e professionale e l'avvio verso una nuova direzione. Fatelo con me. Destini incrociati. Destini incrociati è in America. È il 1989. E Jeff Koons, un giovane artista newyorkese, dopo aver visto su una rivista una fotografia di Cicciolina, sente che la deve conoscere. L'interesse è anche artistico, poiché vede nella pornostar e nella simbologia legata al suo personaggio un nuovo stimolo per la sua arte. Cicciolina, dal canto suo, è impegnata nella sua avventura politica nel Parlamento italiano, dissacrazione estrema della realtà, figlia degli anni Ottanta. Da quell'incontro nasce per entrambi la possibilità di una nuova realtà. Jeff e Ilona si incontrano e si piacciono. Diventano subito amici. Lei è impegnata sentimentalmente ancora con Riccardo Schicchi, suo pigmalione dagli esordi. Ma ben presto l'attrazione per questo giovane americano diventa ingestibile. Non si tratta più solo di scambiarsi idee sulla visione del mondo o sul modo di comunicare alla gente attraverso la trasgressione, attraverso i simboli, attraverso un vocabolario che tutti e due sanno di avere. Adesso si tratta di corpi, di desiderio, di materia e carne allo stato puro. Lui è un artista, colui che ha deciso di plasmare la materia per dare al mondo un messaggio. E lei è il messaggio ancestrale che il destino ha spedito al mondo e che Jeff vuole inserire nelle sue opere. È importante per me che la gente capisca che nella vita c'è molto più dell'intelligenza, della logica, della razionalità. La gente deve riconquistare il proprio istinto, il proprio senso animale, la propria storia. E io sto cercando di fare qualcosa per la mia vita. Io sto cercando di conquistare il mio desiderio. Dopo il loro incontro, nasce la collezione Made in Heaven, per la realizzazione della quale Koons esplora e analizza a fondo la propria sessualità e moralità, rimuovendone la paura e il senso di colpa, per approdare a sincere ed esplicite rappresentazioni di quello che l'artista definisce l'eterno. Perché ci sono due elementi che determinano l'eterno, secondo lui, quello biologico e quello spirituale. E Cicciolina ha certamente riportato a galla l'eterno nel suo insieme. Jeff produce sculture in legno, porcellana, vetro, marmo, liberamente ispirate al Kama Sutra. Esplicite posizioni sessuali dello stesso Koons e della sua musa, a rappresentare la materia, la carne, il desiderio, ma anche freddi busti marmorei per sublimarne l'unione spirituale che si cela dietro all'istinto, esaltando la trascendenza. In un'intervista lo stesso artista dichiarerà: «Siamo i nuovi Adamo ed Eva». Si parla quindi anche di religione, come dice il curatore della mostra, Francesco Bonomi. Jeff Koons ha un approccio religioso verso la sua arte. Lui crede realmente nel potere dell'arte come mezzo per trasferire sentimenti d'amore. Crede nella trascendenza, celebrando la felicità. La felicità adesso è Cicciolina e la loro storia d'amore. Nel 1991 arriva il matrimonio e infine, a coronare desiderio e creazione come veri Adamo ed Eva, arriva la gravidanza. Avere un figlio è quanto di più vicino al percorso fatto fino ad ora per la pornostar. Un figlio è l'esperienza conclusiva del suo progetto, qualcosa che la ricollega al suo passato familiare. E mentre dentro di sé sta nascendo una nuova vita, nella sua attività politica sta nascendo un nuovo partito. Come dice il TG nel marzo del 1992. Partito dell'amore, parte da uno. Elena Anna Staller, in arte Cicciolina. Ma capolista sarà Moana Pozzi. Oggi alla presentazione delle liste Moana non c'era, giustificata da Cicciolina che dice sta lavorando molto bene. Il manifesto elettorale del partito è semplice, far trionfare l'amore. Come? Riaprendo le case chiuse, creando parchi dell'amore, abrogando la censura, introducendo la sessualità nelle carceri, lottando contro le fabbriche di armi. Ilona Staller, accusata di aver troppo disertato i lavori del Parlamento, si è serenamente difesa. Ho portato all'estero il nostro messaggio politico. All'estero, Ilona ha portato molto di più di un messaggio politico. Ha portato un messaggio universale, grazie anche all'intervento di suo marito, che l'ha immortalata nella collezione Made in Heaven, collezione che farà scandalo alla Biennale di Venezia. You never read the signs. Too much love will kill you every time. Nel 1992 nasce Ludwig Maximilian, frutto dell'amore, dell'istinto, del desiderio. Premio per avere dato seguito al disegno della natura. Ma contemporaneamente finisce la relazione tra Jeff e Ilona. Il destino ha concluso il suo lavoro. All'artista la sua collezione, alla donna un figlio. Il contendere della fine del matrimonio diventa la loro creazione più riuscita, Ludwig. Sembra facile credere che la corte affidi il bambino al padre, vista la professione della madre, e così almeno è all'inizio. Ma tra i due comincia una guerra. Ilona arriva persino a rapire il figlio, come racconta lei, è un gesto che rifarebbe. Io credo, mi piace stare nella legalità all'incirca al 99%. Quell'1% me lo tengo per la non legalità. E perché? Perché io so che quando mi è stato portato via illegalmente mio figlio, che era di un anno e pochi mesi, nessuno, politicamente ho chiesto aiuto dai politici italiani, nessuno si è mosso un dito. Perciò io sono andata e ho ripreso mio figlio dopo che sono stata sotto la giurisdizione americana per 5 mesi e l'ho rapito mio figlio. Ritornando invece su quel 1% del non legalità, lo rifarei, lo riporterei mio figlio. Cicciolina ora è la femmina che difende la propria prole anche in barba alla legge. È la donna che si vede privata della sua creazione e che decide di non rinunciarvi per nessuna ragione al mondo. Lei, il simbolo della sessualità ostentata, che dopo aver dato seguito all'istinto e avere contribuito alla conservazione della specie, ha finalmente il suo progetto ed è esclusivamente suo. I bambini sono delle madri, come sostiene a forza lei stessa. I piccoli bambini appartengono alle mamme. Perché appartengono alle mamme? Perché i papà possono visitare, possono vedere, però non possono dare quell'amore, quella maternità, quella cosa che insomma nasce con il nostro dentro, quando ci sta nella nostra pancia, questo grandissimo amore che noi riusciamo a dare. Ovvio che il papà può dare questo amore, nessuno lo toglie, tutti i papà possono dare, però non si può togliere da piccoli, dalla mamma, i bambini, cioè è una crudeltà. La difesa con tanta passione del suo nuovo status, quello di madre, potrebbe sembrare in contrasto col suo passato da pornostar. Eppure è stato il destino a portarla a sperimentare questa nuova frontiera della sessualità. Alla fine anche la giustizia le dà ragione. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha confermato a Ilona Staller, ex Cicciolina, la custodia del figlio Ludwig in una causa che la opponeva al padre del ragazzo, lo scultore americano Jeff Koons, considerato l'artista figurativo più pagato al mondo. Dal canto suo, Jeff Koons, dopo la separazione, prosegue il suo percorso d'artista. La sua arte ormai, con la scintilla data dall'incontro con Cicciolina e con la nascita del loro unico figlio, diventa il modo di comunicare al mondo, insieme al figlio Ludwig, il primogenito che gli è stato sottratto. Sono gli anni, infatti, delle collezioni dedicate all'infanzia, come Celebration. La scultura che lo renderà più famoso al mondo nasce come segno lasciato proprio al piccolo Koons. È Papi, un terrier alto 13 metri e composto da un'armatura capace di contenere 90.000 piante fresche, grazie a un sistema di irrigazione. Periodo prolifico, è vero, ma anche buio per Jeff, come racconta lui stesso. Non mi sono mai sentito insicuro riguardo all'arte. Mentre nella vita personale ho avuto una situazione terribile che riguardava mio figlio. Ho subito una grande ingiustizia. Sono stato molto preoccupato. Questa situazione mi ha causato ovviamente molta ansia. C'è ansia, ma c'è anche una carriera che decolla. Gli anni 90 sono gli anni della consacrazione per Koons. Espone in tutto il mondo, persino a Versailles. In mezzo alla magnificenza francese le sue opere trovano una collocazione provocatoria di grande effetto. Nel 2001 Jacques Chirac lo nomina Cavaliere della Legione d'Onore. Una delle sue opere, Hanging Heart, un grande cuore di 1.600 kg, viene venduta da Sotheby's a New York per $23.561.000, stabilendo un record mondiale fra le opere di artisti viventi battute all'asta. E Cicciolina? Da pornostar a parlamentare, infine mamma ed opera d'arte. Ma non solo per l'ex marito. Nel 2006 è stata inaugurata una mostra fotografica realizzata dal fotografo Gianfranco Salis dal titolo Ilona Renaissance, dove Cicciolina viene ritratta in tutta la sua bellezza, fortemente voluta da Gloria Porcella, che ne scrive così. In questi scatti Salis ha saputo con grande professionalità carpire l'immagine di una grande donna, che ha reso grandi tutte le persone che hanno saputo riconoscere la forza della sua personalità. Cicciolina è stata la musa di suo marito Jeff Koons, che ha reso celebre in una biennale a Venezia con la scultura Made in Heaven e che oggi, grazie a lei, calca la scena dei musei di arte contemporanea di tutto il mondo. Ma Cicciolina è rinata. Lei è l'opera d'arte. Ilona ha avuto la sua rinascita, ma allo stesso modo Koons ha avuto la sua arte, anche se la loro relazione è dovuta finire. Chissà cosa ne penserà Ludwig, ma questa è un'altra storia. Adesso arriva lui, apre piano la porta, poi si butta sul letto e poi. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.